La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, non c'è divinità tranne Allah, unico, senza alcun compartecipe della sua qualità divina. Lahul mulku wa lahul hamd, a lui appartiene il regno e a lui appartiene la lode. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, egli è onnipotente perché su ogni realtà egli ha potere.